Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Direttamente sul posto di lavoro si fa fare analisi del sangue qua in diretta. Francesco da Danza. Non ci crede. Non ci credo. Cosa? Cosa gli trovano al posto del sangue? Ma lui non c'ha sangue nel suo corpo, è come un visitor, c'ha un liquido verde. Ma lui. Che visitor? Tu devi andare a fare la visita. Sarà ma tu, ma io non lo so. Dai, o è verde o è marrone, Leone, eh? Non no, c'è via no, di scampo. No, c'ho il sangue buono. Ma che cosa? Se lo vuoi assaggiare, te lo faccio assaggiare. Ma sì, grazie. Senti, ti mandiamo maglietta e cappellino, ok? Ok, ti buona ringrazio, giornata, aspetta, ciao. Leone, salutalo, vai. Come si chiama lui? Adamo. Eccolo qua. Perfetto. Ciao amore, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Lo Zodi 105 vi ho offerto dalla Senza Buon Gusto Corporation. Lo Zodi 105. E per dimostrarvi che questo programma non ha il buon gusto, c'è ecco la... a voi il nuovo disco di Leone di Lernia. Sta facendo promozione in tutte le radio, tranne ovviamente 105. Anche ieri l'abbiamo fatta attraverso Dimensione Sua. No! Anche lì! Sei un vomito umano, guarda. Madonna. Comunque ringraziamo ieri Paolo e Lester, Paolo Dini di Radio Monte Carlo, ringraziamo Linus. Con chi l'hai fatto su RDS? Con quel Petty. Dico tante cose. Non me ne frai. Prendevo tanti schiaffi. Non mi arrendevo. Mi mandavano a quel paese. Io pure allora. Dicevo che so cantare. Fatti sparare. Ho parlato pure con la garra. Ma va a cagare. Nella rosa mi diceva. Tu non mollare. Devi fare questo mestiere. Se vuoi campare. Sapevo che era dura. Ma ce l'ho fatta. Cosa? Hai fatto cosa? Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno. Non me ne frega. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno. A Super Classifica Zoo c'è lui, il maiale, l'unico che riesce a far promozione al suo disco anche nelle altre radio, l'unico inimitabile, l'uomo più puzzolente del pianeta Terra, è Leone di Merda. Combatterò ancora, c'hai 90 anni, mi bacio tutti quanti, lo dici tu, con gli LP che ho fatto, sono tutti falsi, mi mandavano a quel paese, io pure a loro. I vagoni. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno, non me ne frega. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno, non me ne frega. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno, non me ne frega. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuno, non me ne frega. Spiegami questa, Leone. Sapevo che era dura, ma ce l'ho fatta. Fare che cosa? Cos'è che hai fatto? Ad avere un piccolo spazio anch'io. Sì, nel mio programma. Vabbè, non è una cosa facile, diciamo, in Italia. Io me lo ricordo ancora, ero arrivato da poco a 105, facevo il weekend e Leone passava sotto la radio e io facevo il pomeriggio, se non sbaglio, sabato e la domenica passava sotto. Oh, quello è forte, veniva su, sei bravo, sei forte, dai che fai strada. Io Alberto Az che Mazzolo è forte. Sì. Lo dicevo io. Sì, cioè, perché ero l'unico con cui potevi veramente, diciamo così, succhiare. No, perché gli altri un po' sono muti. Gli altri li avevi provati tutti ormai, mancavo io, ero la vittima nuova, hai capito? Ma gli altri hanno un po' di paura. Sì, tutti sì. E noi invece possiamo andare a vendere limone, se perché. Dobbiamo collegarci con la Carbone, a fra poco. Vuoi un flutto di champagne? No, voglio un fluto. Vuoi un pluto? Un pluto. Ma che brutto sei oggi. No, come sei vestito oggi? Oggi sono bello. Madonna. Perché gli occhi ancora si devono aprire? Lo so, a me sì, stamattina allora, sì, ragazzi, è una vergogna, veramente. Dai. Stamattina mi vergogno di me stesso. Guarda, non vedi questa bella donna. Tu che cos'è secondo te? Questa è la mucca, Leone, questa no. È la foto di una mucca. Ma va? No, per te è una donna quella, beh, per te è uguale. Le donne con cui vai tu sono tutte mucche. Gimba, se vieni a vedere è una bella donna. Sì, è la mucca. Lui sta dormendo. Gimba, questo sei tu, guarda. guarda, aspetta. No, no, dai, non farlo vedere, se non si ingacchia. No, è uguale. Uguale. Vabbè, dopo te la trovo, no, tranquillo. Oggi sono anche arrossato poi. Povero. No, dovete sapere che Giba è il famoso dalmata di Radio 105. È un po' a macchie bianche e normali, diciamo, no? Una scacchiera. È una scacchiera. Bravo. Solo che se prende il sole, praticamente si ustiona. Infatti, cosa ha fatto ieri lo scemo? Ha preso il sole, praticamente dove c'ha le macchie bianche, lì è carne cruda. E diventa una mortadella. Sei cotto. Sei cotto come la vecchietta in Mattinatis. È morto stamattina. Grazie, Jimmy. E attenzione, l'Italia canta con noi. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Siamo andati a Pavarotti ieri sera, come cacchio? Lo so. Ah, ci ha chiamato. Perfetti, eh? Eravamo perfetti. Di qua. È vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Oh, gli ha cantato tutto lui le canzoni ieri sera. Tranne questa. Sì, tranne questa. Buongiorno, venerabile. Penso che sia stato uno dei travestimenti meglio riusciti della mia vita. Ma che cosa? Quella barba incolta così. Ah, era lei allora, travestito da Pavarotti. Sì. Quel grasso fatto col piombo intorno. Certo, certo, certo. Con la barba nera. Come sì. Ma bisogna dire una cosa, che Pavarotti è tutto natura, non è tinto. No. Lì usa proprio vernice nera. Io dico, ma almeno un minimo. C'ha 70 anni, non c'ha un pelo bianco. Ma tu invece. Ma la scena più bella è stata quando ho fatto uscire il Pavarotti vero. Sì. E io mi sono travestito da Patti Pravo. Ma che cosa? Ma la vuol finire? Salve ragazzi. Buongiorno, venerabile Jimmy. Ricordiamo che lei è l'uomo più ricco, più potente, più bello e più bombabile di tutto il pianeta Terra. Ebbene sì, io sono l'uomo più ricco dell'universo. Sì. Ho, diciamo così, una serie di attività che mi portano a guadagnare miliardi di miliardi di mila miliardi di minchia trilo miliardi di minchia super milioni di miliardi di mila miliardi di miliardi di milioni. Ho capito, poche lire. Insomma, sì. Vuol fare lo stesso investimento che ho fatto io in banca? Cioè? Ma ha bruciato quei 4 soldi che ci avevo messo. La borsa. O la borsa o la vita, se lo ricordi. La vita stavolta. Sì, ma la sua non è che sia molto meglio, eh? Infatti. Senta, arriva l'estate, allora. C'è qualche idea nuova, qualche prodotto nuovo? Ma lei dove va in vacanza? A Cannes? No. Dove va? No, non a Cannes. A Tre Palle? Sì. Dove va? Non lo so ancora. A Trulli va lui. Mi sa che la vacanza la faccio a Milano. A Chiavari? Dove va? No, non lo so. Non si sa. Senta, allora, io ho un consiglio per lei. Sì. Se ne stia bello bello della sua casettina lì, no? Sì. Della sua bella topaia. Grazie, sì. E si compri la spiaggia in scatola. La spiaggia, ancora? È uscita la versione nuova. Cioè, la versione 2001? Bravo. Oddio. Ancora più innovativa, ancora più reale. Sì. Ancora di più per una vacanza da sogno. Sentiamo, dai. Arriva l'estate. E il padre dei padri Jimmy ha pensato ancora una volta ai milioni di pezzenti che ascoltano lo Zobi 105. Grazie. Zobi 105. Se per te le vacanze sono ancora un sogno lontano, corri in cartoleria e compra la spiaggia in scatola 2001. La spiaggia in scatola 2001. Una confezione quasi tascabile che racchiude tutto il necessario per ricreare in camera da letto o nel tuo ufficio una vera e propria spiaggia. Ma cosa? 1000 metri quadri di sabbia compressa in un piccolo sacchetto che appena aperto vi cosparge l'intera stanza di sabbia maldiviana originale. Che cosa? 7 ombrelloni componibili con telone in puro cashmere, viti in oro massiccio 140 carati e diamanti puri al posto dei fermagli. 800.000 litri di acqua sottovuoto e compressa in una piccola bustina di pochi centimetri, ma che appena aperta vi creerà una vera fetta di oceano. 4.000 specie di pesci tropicali ibernati in una piccola ghiacciaia di pochi centimetri, ma che appena aperta vi regalerà il fondale più colorato di qualsiasi spiaggia tropicale del mondo. Ma cosa? Squali tigre, squali bianchi, squali verdi, blu, rossi e squali della Citroën. Tutti radiocomandati per poter attaccare qualsiasi persona della famiglia o del vostro ufficio che si infilerà nella vostra oasi di nascosto. Attenzione! Il kit La spiaggia in scatola contiene anche il bottone di emergenza. Bottone di emergenza. Cioè? Un tasto che vi permetterà di smontare tutto il kit e rinchiuderlo nella sua pratica confezione. Ed evitare che il vostro capo ufficio vi possa beccare. un attimo, avanti. Apri, oi! Salve direttore, dica. Cos'è? Mazzocchi? Mazzoli. Mazzocchi? Sì, Mazzoli. Pistocchi? Mazzoli. Cos'è sto casino? No, che casino, scusi? Ma è pistacchio, non fai mica il furbo con me. Che casino? Sentito gente che urlava, l'acqua, che cos'è che no, sì? No, stavo ascoltando la radio, lo Zoo di 105. Lo schifo lì? Lo so. Con la merda lì? Sì. Uè, Mazzocchi, fa mica il furbo con me. Perché? Uè, Fantozzi, mi ti licenzi se te vecchi l'altra volta lì che del Joker. Mazzoli? Pistocchi? No, Mazzoli. Mazzocchi? Vabbè, buonanotte. Non aprire la bustina di acqua in locali con finestre aperte o con porte con spifferi. Come mai? Per evitare di allagare l'intera città. Ma cosa? La spiaggia in scatola è un'esclusiva Last Mignot Tour. È il tuo quello, Leone. No, quello è il tuo, Pistocchi. Il tuo ultimo? No. Il tuo ultimo Putan Tour. Chissà quanti ne hai fatti nella tua vita, eh? Tantissimo. Hai voglia? Guarda, hai voglia. C'ho una camera da letto piena, dico. Giba, per favore, chiudi la linea. Giba. Un attimo solo. No, no, io con lei non parlo. Giba, per favore. Giba. Solo parlare. Scusi. Aspetti che giro un po' di palline. Dai, sì. Dai. Ne prendo un po'. Ne prendo 7-8. Giba, chiudilo. Un attimo solo. Sì. Metti la mano sotto. Guardiamo i bussolotti. Che numeri ci sono? Adesso vediamo. Stai zitto. 90. Ma basta. 90. Basta. Tu c'hai 90. Il culo. No. Porca miseria. Senta, per favore, padre Ralfi Rosario, se ne vada, lei porta sfiga. Le porte sono aperte. Ma basta. Guarda. L'aspetto, Donatello. Senta, come muoio? Non zero glielo zero. Posso dire. Madonna. Glielo non dico niente, più tardi. Arrivederci. Marco, ti verrò devo trovare io dopo. Ti verrò a trovare io dopo, basta. Scemo. Basta. Ah, come sei schizzinoso. Le porte sono aperte. To. Ah. Mazzoli, ricordati che fra pochi giorni scomparirai. È stato bello lavorare con te, ma sarà ancora più bello lavorare senza di te. Yo man. Yo yo yo, this one goes out to you and you because you're tuned to the Zoo. Radio 105, shug it! Take it on wild, real quick. What is happening? E per quelli con il sonno davvero pesante, eh? Il risveglio 4, con tanto di odori reali e direzionati verso il tuo naso. No. Leon Time funziona anche da antifurto. Infatti, nel caso di un tentato furto, il Leon Time entrerà in azione e oltre a liberarsi delle varie suonerie, inizierà a parlare della sua carriera televisiva, al punto di asfissiare il delinquente che vi si è infiltrato in casa. Quello nazionale, quello di Mediaset, tutti, shut up in! Out! E nessuno mi può fregare a me! Se c'è qualcuno che mi vuol fare. Basta! Leon Time, la sveglia. E che sveglia? Leon Time. Quello nazionale, quello di Mediaset! Basta! Vado! Pensa, entri in casa, tu ladro, entri in casa e vuoi rubare. A un certo punto vedi un piccolo leone di Lernia che ti aggredisce parlandoti della sua carriera televisiva. Guarda che questo è Mazzoli Time. Ma stai perché tu! Io cosa? Tu vai mal di corpo. Te lo dico io. Gente, si muore qui dentro. Apro la porta, Giba. Vieni qui, stai. No, stai qua. Stai qua. Ma no, ti scandalizzi per una scorreggina. La scorreggina? È un gas avvelenoso. Mettiamo. È una bomba al napalm. Cada vez che te veo. Quello è il mio qualcos'altro. Vabbè, abbiamo gaglia? Vai, non andare. Non le, andare. 7, le 7.26, buongiorno. Vado? No, stai a cuccia. Oggi un po' più tardi, visto che a quest'ora mi sa che queste dormono. Sì. Faremo una cosa che mi ha un po' così scioccato ieri. I miei amici, facendomi uno scherzo, in un posto dove ci sono i computer per guardare i siti internet, eccetera, mi hanno portato all'interno di un sito dove spacciano delle donne per delle escort, non le Ford escort. Ho capito. Diciamo delle accompagnatrici. Sì. E in realtà invece tu paghi e ottieni, diciamo così, no. La prugna, come la chiamava. Lo stipendio va via. Mario Perrone. Un milione. Ouch. Un milione per due ore poi. Hai capito? Conosco un altro che fa un milione. A parte tua moglie? Beh, mia moglie va proprio smilione. Ah sì? Magari. È calata di prezzo allora. Insomma, sai, una tenta dietro la schiena, una tenta per terra. Poverina. Invece Nenna Rosa. Salutiamo Nenna Rosa. Allora, più tardi chiameremo, siccome ti mettono il numero di cellulare, no? Sul sito. Sì, tu, sì. A parte che non le vedi mai in faccia, questa cosa un po' mi preoccupa, è quella la cosa. Però vedi dietro. Dolcissima, brillante, sofisticata, 29enne milanese, conoscerebbe solo veri gentiluomini per serate e weekend. Sì. 2 ore, 1 milione. La faccia non si vede, ma di dietro si vede. Certo. Ma sono dei fotomontaggi. Lo so, lo vabbè, so. Intanto che aspettiamo che arrivi l'ora giusta per fare sta cosa, giochiamo a Mugisce Vinci. Mugisce Vinci. Ah, devo fare un salutino speciale. A chi? Al primario dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Ah, sì. Perché è veramente un fratello lui. È bravissimo. Sta operando un amico di Giba che sta molto male. Professor Marraro che ascolta lo Zoo tutte le mattine. Del reparto di animazione che ascolta lo Zoo tutte le mattine. E quindi cogliamo l'occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Pippo e speriamo che si rimetta presto. Il professor Marrano lo conosco. Sì, io. Ma il professore non deve ascoltare lo Zoo, se non opera bene. Anche Dadazio ascolta, il dottor Dadazio. Ah, quello che ti ha fatto il prelievo del sangue, gratis. No. Così salutiamo anche tutti quelli che lavorano negli ospedali che si fanno un culo. Sì, dai, c'hai ragione tu, Ziba. Bravo, Ziba. Chiamiamo Modena, attenzione. Andiamo a giocare a Mugisce Winci. Chiamiamo l'ascoltamilca. Ah, dobbiamo ricordare. Cosa c'è? Che allora, Mazzoli stasera vi aspetta la canniccia di Forte dei Marmi. Oh. Inauguriamo finalmente la serata. La e domani siamo ad Arezzo, al Crocodile. Ciao, Erika. Come stai, amore? Oh, sono... Sei? Infortunatissima. Cioè? Sono caduta in moto e mi sono rotto una spalla. No! Quando? Adesso proprio? È stato martedì. Oh, ma piccola, sei a casa sdraiata nel letto? Sì, infatti. Allora ti mando leone. No, non può fare più i movimenti, come fa? non riesco. Ma guardi. Piccola, solo quella ti sei rotto, spero. Sì, per fortuna sì. Ma come hai fatto a cadere? Ho inaugurato la moto perché mentre andavo a lavorare c'era della sabbia per terra. No, nuova era la moto? Sì, una Aprilia 250. Ma dai. 7-8 milioni di moto magari. Ma spero di... L'hai distrutta? No, l'ha affiancato un scusa po'. Un attimo amore, non sono cose belle però. Si deve soffiare in naso, il naso è 3 metri. Grazie amore. Grazie. Scusa, Radio Verità, non è che posso sempre essere sano io. Ho capito, ma quel naso però ti... Vai zitto. Amore, ti mandiamo cappellino e magliette se vuoi un gesso. No, grazie. Quello che usiamo per tenere eretto, diciamo, l'attrezzo sessuale di Leone. Zitto, sta bello. Ciao amore, un bacino. Ciao, scusa, amore. Posso chiedervi una cortesia? Vai. Mi potete spedire i vostri autografi? Oh, sì, amore, ti mandiamo 3x, non sappiamo scrivere, amore. Ciao, amore. Va bene, ciao, grazie. Ciao, buona giornata, ciao. Voi, ciao. Lo Zoo di 105 vi ha offerto dalla Senza Buon Gusto Corporation. Lo Zoo di 105. Domani. Piccolina Erika. Non bomba più, Bene, ma da una parte ce la fa, dai. Direttamente dall'orto, c'è l'85 man. Ai ai, chi ve l'ha fatto fare a fare queste cose in trasmissione? Dedicata allo zoo. Vai. Roba da zoo. Solo roba da incompetenti. Roba da zoo. Solo roba. Coccherato al micro, col fiato che devasta un tipo di individuo in grado di mangiarsi un grillo. Bello. Sarebbe come fare un complimento al nulla. Lo zafferano spende dalla bocca la scintilla. Potrebbe scatenare un cataclisma. In via Turati conosciuto come Leone lo specialista. Ogni presente in TV come i divi. Ma il tempo lascia in City quando arrivi. Negli studi fa attenzione. Potresti sbattere contro una zone di terza dimensione. In trasmissione la mucca pazza Giba. Giba. Mamma go, noto Wender. Gli manca solo la siringa. Eppure tutti svegli nei fienili, con una corda presa al collo senti stime e chili. Meno male che dall'alto Jimmy regna. Bella bastard inside line fit pro dalla Sardegna. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba. Grazie. tutti sti ragazzi della Sardegna. Fit Prod. Freak Prod. Freak Frog. Freak e Frog. Chris Cross. Dovete chiamare Freak e Frog. Oddio, dai, mettiamo un disco nuovo vero. Andiamo, andiamo, andiamo. È arrivato il padre dei padri, Jimmy, e l'Italia canta con noi. Oi! È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Un po' di tempo. Siete peggio di Gigi D'Alessio. Grazie. No, ci hai offeso. Grazie. Ma lo sa quanta gente lo ama invece? Lo so. Guardi, veramente è una cosa incredibile. Mi dicono tutti, ma perché scrive delle canzoni romantiche. Ma non puoi fare un'intervista però. Perché? Madonna mia, è pericoloso. Perché cosa dice? Si arrabbiano solo perché lui c'ha sempre 10-15 persone dietro. Lo so. Lo sa? Senta, questo è un periodo un po' drastico per tutti perché tutte le persone stanno organizzando le vacanze estive, no? Bravo, lei come sappiamo tutti andrà in vacanza sotto il ponte di Trezzano. Ma che cosa? Non è vero. Ah, non è vero? No, non è vero, Jimmy. Senta, lei che è l'uomo più ricco e più potente dell'universo. Ma guardi, io chissà quali vacanze ho organizzato, Ma guardi, io ho un po' di ipotesi, nel senso che probabilmente siccome abbiamo unità di tempo diverse sugli altri pianeti. Ah, sì, beh, cioè, certo. Le spiego, se lei qua fa un mese di vacanza, se io vado su Saturno è un anno. Beh, giusto, certo, certo. Se io mi sposto su Mercurio, sono 3 anni. Certo. Se io mi sposto su, che ne so, Giove, sono 7 anni e mezzo. Di ferie? Bravo. Andiamo a vivere lì allora. Non sarebbe male. Esatto. Io vorrei andare a Palla di Maiorca. A Palla di Maiorca? Sì, così grosso. Quelle ce le hai ormai. Ma lì potresti veramente fare un gran successo con le tue canzoni, no? Le traduci in spagnolo, scusami. Ma basta il pugliese, uguale. Senta, quindi ha deciso lei dove andare, eh? Guardi, io ho un po' di ipotesi, però so che la nostra Lili Rossetti, anche quest'anno, è in giro per le località di mare per capire quali sono, diciamo così, i mari più puliti, le località, diciamo, più accoglienti, gli alberghi più attrezzati e tutte queste cose qua. A lei va in giro per scegliere, diciamo così, il loco per le sue vacanze? Bravo. Bravo. Ma è una giornalista. Io pago delle persone per fare niente. Bello, va in vacanza già lei. Bravo. Ho capito. Il loco è bello. Ci colleghiamo con Lili Rossetti, pur sapendo che c'è gente come lei che è in vacanza da una vita. Ma che cosa? Mi vergogni. 105 News, edizione straordinaria. Cos'è? Mazzoli se n'è andato. No! Mazzoli se n'è andato. No. Mazzoli se n'è andato. Ma sono qua! Alleluia! Alleluia! Che puzza! Dai! La vogliamo finire? Chi di voi ha il mal di pancia? Forza! Forza, voglio un nome adesso! Come? Claudio Mazzoli! Claudio Mazzoli! Ma no! Venga qui, senta, signor Claudio, io sto per andare in onda. Lei non può fare il leone di Lernia dei poveri e seguirmi in giro per l'Italia quando faccio i miei interventi, ok? E adesso se ne vada! Lei è quel nasone che si ritrova! Se senti, cantate con me! Vai! Sono la lì, sono la lì, sono la lilli! La più susa, la più susa, la più susana. Fuori tempo. Me li bombo tu, me li bombo tu, me li bombo tutti. Vai Lilli. Cari barboni da competizione, esseri privi di morale, di materia grigia, ma soprattutto privi di buonsenso, perché state ascoltando il programma più purgativo dell'intero sistema solare. Grazie. Sono Lilli Rossetti, la giornalista privata del venerabile Jimmy. Oggi mi trovo sul lago di Garda, in provincia di Brescia, dove stanno per iniziare i lavori che il grande Jimmy, il nostro re assoluto, ha ordinato questa mattina. Pensate che tra poche ore verrà completamente rasa al suolo tutta Peschiera del Garda e dintorni per innalzare la residenza estiva del nostro padrone. Ma che cosa? Ecco, in questo momento stanno radendo al suolo una certa Gardaland. No! Pensate che vicino ai lavori c'è un... mi pare un nano, c'è un nano, sì, un certo Claudio Mazzoli che impreca contro gli operai. Ma ormai il grosso è stato polverizzato. No! Verso le 10 verrà completamente prosciugato il lago di Garda e verrà sostituito da un'enorme piscina rivestita di piastrelline a mosaico per il nostro Jimmy, che quest'anno ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze proprio sul lago di Garda. Ma perché? O meglio, l'ex lago di Garda, che presto verrà rinominato Lago di Jimmy. Ma che cosa? Ricordiamo che tutte le persone che rimarranno senza una casa o un lavoro potranno andare a rifugiarsi in via Tadino 3 a Milano, a casa di Mazzoli, che vi ospiterà per tutto il tempo. Ma che sei, ma sei scema? Mazzoli? Mazzoli? Mazzoli, non ti lamentare, che di spazio ne hai da vendere? Dove? Tu dietro ne hai tanto di spazio, sì, per ospitare i tuoi amichetti biadesivi che ti imbuffettano ogni giorno. Gay! Lilli! Nasone di Mazzoli! Che bastarda! Vai, vai! Pirla. Che bastarda! Eh beh, uè! Siete dei bastardi! Però un garage dietro ce l'hai! Pesci che ho dovuto far... ho dovuto far togliere anche tutti i pesci d'acqua dolce! Ma sta scherzando! Sì, perché nella mia piscina non voglio le trote! No, lo faccio riparare! Si deve spostare lei da Napoli! Mi hanno detto che ci sono gli ingranaggi che non vanno! Ma quali ingranaggi? È un vulcano! Ma scusi, è un po' il simbolo di Napoli! Ma secondo lei è giusto che la vecchia giunta comunale... Adesso un vulcano lì così, il vulcano non spara fuori niente. Ma scusi, se spara fuori sono cazzi aree. Non vuol dire niente. Ma cosa? Dov'è l'attrazione della città? Ma che attrazione? Ammazza tutti se inizia. Dai, dai, dai, lasci stare. Lasci stare. È 3.000 anni che lì adesso lo vuole sposare lei, giusto? Allora giusto. Facciamo una cosa. Sì, signora, il vulcano lo mettiamo in mezzo al mare. Così può sparare liberamente. Ma come fa a spostare un vulcano? Non si... fa rompere le balle a nessuno. Ma cosa? Adesso fa. Faccio una telefonata a Grillo Antonino, a quello dei traslochi. Ma, ma non si può spostare. Cacchio dice questa. Trasloca il vulcano. Allora, sì, sono Rosa Russo Iervolino. Sì. Ho telefonato perché vorrei spostare il Vesuvio in mezzo al mare e lo stadio sull'isola di Capri. Ma no! È possibile? Non si può. Va bene, grazie. Va bene, arrivederci. Cosa hanno detto, mi scusi? Hanno detto che faranno tutto in giornata. Ma cosa? Lei è pazza, arrivederci. Salve. La musica nuova, prima di tutti, è su Radio 105. È andata male quella. Questa qua rovinerà Napoli. Ma no. Lo dico io. C'è qualcuno che dice sì, è vero. Questa la rovina. Salve signora Iervolino, un ciao, bacino. Saluto Massa. Mettiamo i trichi. Oh, c'è un messaggio di un certo Claudio che dice: ma DJ Preciso è per caso Pino Insegna? No, ma Piccolo Insegna. Insegna tu anche. Io penso che non sia possibile questa cosa, ragazzi. Ma cosa è successo, Jimmy? Veramente, io penso che non sia veramente. È inammissibile una cosa del genere. Quale? Che un cantante internazionale, sì? Come quello che ho scoperto io, non abbiano invitato al Pavarotti e Fienfo. Il Pavarotti and Friends, si dice. È una cosa veramente impossibile. Aspetta, o sta parlando di Armando, o sta parlando di Mario Perrone, o sta parlando di Fortunato Zanza, no, i suoi tre artisti. Flamingo, magari. Sbagliato. Sbagliato? Sto parlando del più grande gruppo sudamericano mai esistito. Cioè? I Gypsy Kong. Chi li conosce? I Gypsy King, vorrà dire. I Gypsy King, non so chi siano. Ma come no? Cosa fanno? Come cosa fanno? I pasticceri? Ma che pasticceri? Lo so cosa fanno. Si ricorda Jobin? Quella fa parte dell'LP che hanno fatto i Gypsy Kong. I Gypsy King si chiamavano. Quelli che hanno fatto Bambolero. Bambolea. Saranno dei cantanti secondari. Ma cosa? Sono famosi in tutto il mondo. Guardi, non lo so, io... Probabilmente quando loro cantavano sulla Terra, io ero sintonizzato su qualche radio di Giove. Ma che cosa sta dicendo? Hanno fatto un successo a Grattosoglio. E allora non risentivo, però è scandaloso che il cantante di Gypsy Kong non l'abbia invitato al Pavarotti e Friamo. Ma che cosa sta dicendo? Non li conosce nessuno in Gypsy Kong. Hanno inventato tutti i ruoli, George Benson, Simpson e Toby Jones e Patti Pravo. Mancava solo che invitavano mio nonno e avevano invitato tutti, mi scusi. Senta, ma ce l'ha lì con lei il cantante? Ah, stamattina mi canta una canzone per me, ha detto. Sì? Adesso un attimo. Senta, vuole che glielo mando di là? Ma se può, non so, con la macchina del tempo lì, quel cacchio di teletrasporto. Devo mandarglielo col teletrasporto? Sì. Allora devo accendere la macchina. Un attimo allora, accenda la macchina. Pronti? Buongiorno! Buenos días a todos! Come a Toto? A Toto! Ho Toto canto. Aspetta. Aspetta, devi cantarti la canzone. È per Leone o per Jimmy questa? Per Jimmy. Poi in un secondo momento diventa di Gamba Leone, fammi concentrare. Prego, attenzione. Occhio. Vai via! Che cosa sei venuto a fare? Oh. Sono venuto. Aspetta. Perché se te prendo la cabeza, la testa, sì. Leon. E non mi rompe lo scoglion. Cico! Cico, te ne puoi andare, Cico! Vai! Vieni qui che te faccio un così! Vieni mi che te faccio qui! Te faccio qui! Culo così! No. Bravo! Bravo! Ma che bravo! Questo è stato Russia! È bravissimo! Napoleone! Con gli ingannoni! Che tutti i giorni che non beva lei! Ma non saremo vigili a te! E quelle schifose rimangono sulla terra. Ecco, vedi Leone, sei tu. Sei tu. No, Jimmy, chi è lui o io? Entrambi. Ecco. Anche se devo dire che Mazzoli è la punta dell'iceberg. Grazie. Devo essere sincero. Senta, allora, visto che sono brutto dentro, cattivo dentro e nel DNA. Sì, ma la colpa è di qualcuno, eh. Sì, la colpa è del mio direttore. Sì, perché lui si deve rendere conto che io sa dove la metterei io? Dove? In onda a mandare le repliche notturne. Ma che cosa? Cioè, entro e dico: ecco, state ascoltando 105 New York, l'appuntamento in diretta dalle 6 alle 8. Esatto, lei sui dischi sta lì. E ogni tanto apre il microfono e fa un annuncio. Ma cosa? Scusi. Naturalmente l'annuncio deve essere preparato e scritto prima. Ecco. Non è che può andare a casa. Non posso improvvisare, certo. Assolutamente, cioè. Quindi, visto che il nostro direttore è molto calmo in questi giorni, andiamo a scatenare le sue ire di nuovo. Dai. Lo vuole aizzare? Lo vorrei aizzare, sì. C'è un mondo animale dedicato proprio a lui e le sue origini. Anche perché lei può aizzare solo gli altri, perché di suo non si aizza niente. Che cosa? Guardi che si tiro fuori qua, Il mondo animale. Anche quest'oggi la redazione del mondo animale vi porta a conoscere una specie di mammifero che tutti credevano estinto. L'Alex Peroni. L'Alex Peroni. Questo animale, diretto discendente dei Piedosaurus puzzolentos, un carnivoro dell'età della pietra, è specializzato nell'accendere il fuoco espellendo contro un pezzettino di legno gas nocivi dall'intestino. No. Anche in presenza della compagna, il Peroni non disdegna questo tipo di rito propiziatorio per creare l'atmosfera giusta con la propria partner. L'Alex Peroni, grazie al suo busto a salvagente, è in grado di stare nell'acqua per ore, così da accaparrarsi cibo di mare in gran quantità, per merito dei suoi enormi piedi che secernano un veleno mortale chiamato Vitas Independentes. Vitas Independentes. L'animale, una volta circoscritto il suo raggio d'azione per la caccia, grazie a quest'arma che possiede sui piedi taleggiati, non fa altro che raccogliere i pesci di cui si ciberà. Torneremo presto a conoscere questo mammifero, l'Alex Peroni, e con l'aiuto di tutti tenteremo di salvare questa razza che tutti credevano estinta. Ma cosa? Povero. È stato così carino in questi giorni. Hai voglia. Ti vuole un bene. Lui ti ama la follia. Sì, sì. E a me che diventa pazzo. Leone, veramente, oggi o ti lavi i denti o mangi una caramella, veramente, cambio colore della faccia. Cambiamo l'alito? Ma da farne comprare uno nuovo. Cambiamo l'alito tutti e due. Vieni qua che lo cambio io. Non lo voglio cambiare con quello lì, te ne devi andare. Una rara malattia che gli provoca un miscuglio di olezzi sgradevoli dalle caviglie in giù. Pochi mesi dopo, la famiglia decide che per superare il dramma del figlio Alex è il caso di dare luce ad un nuovo pargolo. Ed ecco uscire un angelo, un bambino speciale, sì, con un'intelligenza oltre la media. Ciao, sono Mario Perrone, fratello di Alex Perrone. Mario, sì, Mario Perrone, fratello minore di Alex Peroni. Peroni, Peroni. I genitori decidono che Alex sarà l'unico ad avere un cognome diverso, ah, per non sembrare della famiglia e quasi per allontanarlo dagli altri familiari. Certo. Alex soffre molto per questo e per anni tenta in tutti i modi di rovinare la vita di suo fratello perfetto, Mario, costringendolo a restare chiuso in casa con le scarpe del fratello incollate al naso. Madonna, ma che è sta puzza? Gli anni passano e Alex Peroni ruba idee e capacità al fratello, che sì, invece rimane nell'ombra. Ma a proposito, ma quanti soldi mi date per questo disco? Ma un giorno il piccolo Mario Perrone decide di ribellarsi. Bravo. Decide di ribellarsi. Decide di ribellarsi alla schiavitù del fratello Alex e scappa di casa, corre verso Milano, dove per diversi anni tiene nascoste le sue capacità di artista, sì, e dove lavora per un'impresa di pulizie a Milano. Mario Perrone non riesce a sopportare più questa oppressione. Decide di buttarsi nel mondo dello spettacolo e diventare qualcuno. In pochi giorni scrive 500 canzoni e arriva primo nelle classifiche, superando Michael Jackson, sì, Pupo e Paul McCartney. Viene subito individuato da Steven Spielberg, sì, che lo chiama per un'importante parte nel film Patting Woman e vince l'Oscar. Ma chi? Da quel giorno viene gestito dal venerabile padre dei padri Jimmy, sì, che oggi lo butta in politica con il partito della prugna. Perrone è forte. Sì. Perrone è il futuro. Sì. Perrone for president. Ma cosa? Perrone for president. Grande! Bellissimo! È un grande. Marco, sì, ma la sorella ce l'ha la Perroni? Non lo so perché. Oh, quindi fa la sorella. La sorella mi sa che lavora in Melchiorre Gioia. Sì, ma non la prendo. Dalle 12 di. Da mezzanotte fino alle 4 del mattino. Sì, con tua moglie però. Dai, ci vuole la sorella adesso. Sì, sì. Che la partorisco io la sorella, scusa. Non so, domandiamo se ce l'ha, no? Non credo. Male. Sì, con te, scemo. Si chiama Relation su 105, le 7:23. Bonjour. Bonjour. Ci sono due cose che volevo segnalarvi. Dai. Uno, quando arriva l'estate, oltre alle varie diete che trovi sui giornali, ai modi per perdere i chili, che non si fanno mai, per mettersi in forma, eccetera, sì, sì, ci sono anche i consigli per i capelli, no? Però manca un taglio fondamentale. Hanno messo le 25 pettinature per l'estate. Manca la tua, Leone. Perché? Modello mobile di Aiazzone. Ma qua che testa. È un che taglio cesareo. Manca le mensole, mancano. Vado, fai veramente schifo oggi. Ce l'ho detto, non farlo così oscuro. Quel cornuto, quello lì mi ha fatto troppo scuro. E poi, che è sta roba? Oh, scusa. No, pensavo fosse Jimmy già in collegamento. Dobbiamo ricordare un'altra cosa, che più tardi giocheremo allo spazio. È quella la cosa forte. È quella. Se avete una storia strana da raccontarci, una barzelletta, una cazzata qualsiasi. Un rapporto mancato. Un rapporto mancato, una storia strana con un uomo, con una donna, qualcuno da mandare a quel paese. Ah, il tuo disco questo. Senti. Nel gabine. Vai. Pulisci sempre una camera gara. Questo è per te. Sì. Apro la porta di casa. Pulisci. Pulisci. Tutte le rovinate. Quanta sporci le scale. Dicevamo, numero verde 800 105 105. C'è la bettina che prende le vostre prenotazioni. E adesso giochiamo Gisci Vinci, sigla. Gisci e Vinci. Esatto. Andiamo ad Alessandria. Vediamo se abbiamo degli ascoltatori fedeli oppure no. Dai. Facci un bel muggito cantato, dai. Ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego. Dai. Ma vieni! Ciao piccolina! Ciao, questa appena svegliata, eh? Sei appena alzata, amore? Sì, esatto. Oh, piccola, quanti anni hai? 24. Beh, con sta vocina, tesoro. Beh, appena svegliata, ciao, amore. Sei mio. La Letizietto di Alessandria, amore. Senti, ciao, amore. Dimmi. Ma, allora, se ti sei appena alzata, vuol dire che sei ancora comunque con l'abbigliamento della notte. Esatto. E come dorme questa dolce fanciulla? Con la vestaglia? Sì. Ma c'hai i boxerini o la mutandina? No, c'ho, sì, sono i boxer con la canottiera. Che bello. Vabbè, il gatto non c'è, so. Dai, no, sì. Non c'è, vuoi venire tu? Quale? Magari, amore. Con la sette code? Senti, ma hai il boxerino e la canottierina, che credo sia la cosa più sexy che una donna possa indossare di notte. Trasparente. Trasparente? Sì. Ma c'è un fortunato che vede queste cose di notte? O? No, purtroppo no, vieni tu, Marco. Amore, dai. Sto già arrivando. In che via abiti ad Alessandria? Beh, dammi una penna, Leone, fammi broccolare. Che alle 7:26 ancora stordita, magari ci sta pure. Oh, no, no, non sono stordita. Ho avuto anche il piacere di conoscerti, quindi non sono stordita. Pensa che culo che hai avuto. Mi attacchi, Leone, quindi vi ho anche baciato. Ma dove ci hai visto, amore? Alla discoteca Igloo, a Vercelli. Ah, dove ci hanno fatto il culo? Ricordi, quella che ti tirava sempre i pantaloni. Bastarda, che non sei alto. Non ti ho dato un calcio in faccia, amore? No, non me l'hai dato. Non ti ho dato un calcio, strano, solitamente dai calci in faccia. Io gli darò un'altra cosa. Dai, zitto. Amore mio, non so neanche come ti chiami. Cristina, già ti amo un po', sai? Anch'io ti amo. Vorrei avere un amplesso multiplo con te, ma purtroppo sono sprovvisto di attrezzo sessuale, quindi niente da fare. Non c'è la catena. Come potremmo provvedere con altre cose? Ma sì, c'ho il naso grosso. Amore, ti do un bacino e ti mando cappellino e maglietta, ok? Mi dai anche il CD di Leone, amore. Aia, mo se andiamo avanti così fai 20.000 copie gratis. Però, eh? Dai, amore, ho avuto anche il piacere di conoscerti. Dai, vedo un attimo di convincere il porco qua, ok? Dai, Leo, amore. Il grande porcello vuoi? Dai. Sì, dai, l'ultimo. Tesoro. Va bene. Va bene, dai. Grazie, andata. Amore, ciao, amore mio. Ciao, Marco. Ciao, bacio, piccola, ciao. Zobi 105. Zobi 105. Roba da zoo. Solo roba da incompetenti. Roba da zoo. Solo roba. Maiale coccherato al micro, col fiato che devasta un tipo di individuo in grado di mangiarsi un grillo. Bello. Sarebbe come fare un complimento al nulla. Lo zafferano splende dalla bocca la scintilla. Potrebbe scatenare un cataclisma. In via Turati conosciuto come Leone lo specialista. Ogni presente in TV come i divi. Ma il tanfo lascia in siti quando arrivi. Negli studi fa attenzione. Potresti sbattere contro una zone di terza dimensione. In trasmissione la mucca pazza giba. Mago mago noto Wender. Gli manca solo la siringa. Seppure tu ti svegli nei vinili, con una corda presa al collo senti sti imbecilli. Meno male che dall'alto Jimmy regna. Bella bastard inside line fit pro dalla Sardegna. Roba da zoo, non solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo. Che ti fai in vena. Bravi, bravi, bravi. E attenzione, tra poco ci colleghiamo con la Carbone. Faccio ancora gli auguri, mettiamo tricarico. Questo è uno che si fa, secondo me. Madonna mai. Ragazzi, avete visto ieri Festival Bar un pezzettino? Quanta pioggia. Quanta pioggia. Ma più che altro, allora, la Marcuzzi, vabbè, lei sembrava la padrona di casa proprio, no? Beh, sì, sì. L'altra, la Stefanenko, giusto? No. Come Stefanenko? Fa quella di stare in televisione? Perché? Oh, ma chi ti ha messo in televisione, Stefanenko? È dappertutto, è vero? È dappertutto. Ma chi sei tu? Ma dove apri? Ma chi cazzo ti ha messo? No! Bossari invece, poverino, siccome è un mio amico, sembrava un pesce fuor d'acqua ieri è sera. Vero, è vero. Ma nessuno gli cura i vestiti, l'immagine. Ah, cioè, aveva su sto cappellino che aveva mio nonno. Con sto giubbottino triste, cioè, povero, era lì in un angolino, non lo so. Daniel, vai a casa mia, Nenaro c'è un sacco di vestiti. Se, guarda, se lo veste come veste te. C'è i vestiti di Supercento, vai a casa. Supercento, la famosa firma di Leone, ma oggi indossa, ecco, invece, scusate, un attimo. Promotion. Oggi Leone di Lerna indossa Chiara Boni, uomo. la famosissima stilista sorella nascosta di Armani. Ah, Chiara brava Chiara. Chiara Boni. Questa è pura buona. Ma stai zitto, guarda. Ringraziamo anche la pettinatura regalataci dall'IKEA. Complimenti, un mobile sembri oggi. Dai, che sto bene. In noce? Ah, i nostri amici, i nostri amici. Ciliegio o noce? Noce, ti stanno chiamando, Marco. Ah, sono arrivati quelli dell'AMSA. Ecco, l'AMSA. Lavoratori. E qua Marco, vieni più tardi. Ciao amore, 800-33-22-99. Massacrate. Sono quelli dell'AMSA. Dobbiamo fare una pausettina. C'è la Carbone con le news e torniamo tra poco. Che più fa schifo? Esatto, sono un Chianti classico del 42. Ormai no, è andato a male. Lei è un Chiavica classico del 42. Una Chiavica. Lei è esattamente il contrario del vino, no? Certo. Sa che si dice che il vino, se lo si mette nella cantina, dopo un po' diventa più buono, no? Beh, dipende poi dai vini. Più è vecchio, diciamo così, gallina vecchia fa buon brodo. Esatto. Io invece? Mazzoli vecchio sì? Fa cagare. Ha capito? Jimmy, ma vabbè, perché mi maltratta subito alle 7:30? Perché ti vuole bene. Ma da me non sono le 7:30. Io in questo momento mi trovo nel mio ufficio a New York. A New York, sì. Sono le, diciamo così, 1:30 di notte. Sì. Perché ho avuto un sacco di cose da fare come al solito. Per esempio? Ma per esempio... Aspetta. Ti avevo detto di andare via. Dai, ancora. Sempre con queste donne. Sempre a bombare. Vuol dire che ti metti sotto la scrivania lì. Io non lo... Dai. Guarda che si accorcia la vista. Stai zitto tu. Infatti tu non ci vedi un cacchio. Prostituto che non sei altro. Madonna. No, soprattutto perché ho avuto purtroppo da fare delle selezioni per la radio. Cioè? Lei sa che per Radio Jimmy Network e per Canal Jimmy, per tutte le produzioni, noi facciamo dei casting. Ecco, c'è una cosa forte di loro. Cos'è? Che non prendono sempre le stesse persone come fanno in radio. In Mediaset e a Telemonte Carlo. Schifo. Sempre quelli. Almeno Jimmy li fa ruotare. Ed è appunto per questo che questa notte mi sono, diciamo così, impegnato. Sì? È stato un quarto d'ora perché le altre quattro ore ho pinzettato. Immagino. Mi sono impegnato ad ascoltare un provino che mi ha mandato un ragazzo. Sì. Ecco, lui si chiama DJ www. DJ, interattivo, internet. Sì. Sì, perché sa, con la new economy. Certo. E diciamo così. Con la borsa che va benissimo poi. Con la borsa che vola. Vola talmente tanto la borsa che ci lasceremo la vita. Esattamente. E quindi ho pensato bene di fare questo provino a questo ragazzo. Com'è, bravo? Secondo me è il nuovo che avanza. È veramente il futuro della radio. Ed è per questo che lui si fa chiamare DJ www. Ma sentiamo. Io faccio di meglio, glielo faccio sentire. Ah, bene. Senta qua. Andiamo. Futuro. Futuro. Tecnologia. Tecnologia. Scienza. Scienza. Non fantascienza. Lui è. Sì. È DJ www. www. 21:35 siete in diretta insieme a Cristian e Mirko che vi terranno compagnia per la prossima ora e mezza circa. Ringraziamo i Cranberries per aver aperto il programma di questa sera. Sì. E diciamo che Dolores deve star male con questi urli perché deve aver mangiato sicuramente troppo durante le feste di Natale. Speriamo che Natale. Anche voi abbiate mangiato, ma abbiate già smaltito tutti i postumi delle vacanze sia di Natale che di Capodanno. Che cazzo, siamo ad agosto. Siamo già a gennaio inoltrato perché appunto è il 9 di gennaio. Ma è giugno. Devo dire che sono passate con la Befana, sono passate tutte le feste. Infatti l'Epifania, tutte le feste si porta via. Bravo. Fino ad aprile a questo punto non avremo più un giorno di vacanza. Ciao. Sono felice. Sì. Di nome? Di nome. E di fatto? E di fatto. Bravo. Un bravo ragazzo questo. Sì, è proprio un bravo ragazzo. Anzi, Felice, noi volevamo proporti una cosa. Chiara è disponibile ad essere frustata, arrestata, ammanettata a letto, eccetera. Se vuoi, guarda, lei è a disposizione. Non la voglio. Perché? Io voglio solo lei. Lei. Io voglio solo lei. Lei che si chiama? Che quel giorno ha tanti nomignoli. Ha tanti nomignoli, per esempio. Frugellino, no. In un momento di intimità. Ciccina, come la chiamavi? Pulce, no. Pulce. Musetto. Zoccola. No! Bene, questo è esagerato, dai. Felice! Devo ammettere che hanno chiamato a me anche me così. Lo so. Però non è piacevole, eh. Invece figurina. Sì, è un complimento. No, lei non è. Lei quel giorno era in difficoltà. Sì. In enorme difficoltà. Non era in difficoltà. Voleva suicidarsi con il gas. Non era così. Voleva tagliarsi le vene. Il tubo che hai visto non era il tubo del gas. Era il tubo di carne. Voleva buttare il phon dentro la vasca da bagno. No, ti sbagli, non è così. Comunque. Ma il supereroe l'ha salvata. Che cosa? Ma io tornerò da lei. Ed è per questo che la riconquisterò. e la riporterò a me. Benissimo, allora, due minuti per te, caro Felice, puoi dedicarle quello che vuoi, una poesia immagino, giusto? La poesia di oggi si chiama Il segno. Il segno. Beh, vabbè, ormai il segno. Aprirei questa poesia con un bel amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Vai. Ecco, amore, amore. Fai 20, 20. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Bene. Quando parli, sì, lasci il segno. Oh, la ferita. Finalmente un po' di cultura. Brava. Amore, amore, quando ridi, lasci il segno. Brava. Si sente. Fai un 15, amore, che così almeno scaldi ancora. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Bravo. Sì, sì, sì. Quando dormi, lasci il segno. La birichino, e chi disegna questa cosa? Amore, amore, amore, amore. Dove va? Dove va? Amore. Un po' più caldo, un bel amore caldo. Dai. Amore. Con lo sguardo, lasci il segno. Oh, no. Tenero. Grazie, hai avuto la pelle d'oca. A me è venuta un'altra cosa. Amore. Amore. Amore. Ma che amore? Caro il mio Zorro, hai proprio rotto i coglioni. No! No! Felice! Pronto! Lo Zorro addirittura! Pronto! Io sono Felice. Sì. Di nome e di fatto. E intanto sei pure cornuto. Ciao Felice! Ciao. Mi ricorda Gibba, guarda sto ragazzo. Anch'io. Gibba frequentava una volta una super Susana, signora Simona. Ti ho mai parlato di sta Simona? Aveva una Daewoo. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 archivio bot. Frusca, andiamo! All'arrivo dei due Pokémon, la situazione è già precipitata. Misty è attaccata dal perfido Cubone. Cubone, lasciami stare, lasciami stare! Sarai mia, sarai sempre mia! Devi essere mia! No, non toccarmi! Vieni qua, abbassati un attimo! Abbassati, no, abbassati! No, no. Ah, aiuto! No, Cubone, non toccarmi! Ehi, Cacciù, guarda! Che c'è mio... Misty è in pericolo, bisogna intervenire! Devi fare qualcosa, Cacciù! Me la vedo io! Me la vedo solo io cosa ne faccio io a quella lì! No! Sarai mia, col bacio d'amore, Misty, sarai mia! Non tutto però finisce secondo i piani stabiliti dai nostri eroi. L'attacco letale di Cubone, il bacio d'amore, colpisce Cacciù, no, che si innamora improvvisamente del suo avversario, no, correndoli dietro nel tentativo di bombarlo alla morte. No. Ehi, Cacciù! Ma qualcosa... è successo qualcosa di strano! Cosa c'è? Cosa c'è? Dove stai correndo? Ti sei innamorato? Sì, sì, mi sono innamorata del culone qua! No. E perché lo rincorri? Oh, perché no, c'è? Ma devo andarci dentro! Devo andare dietro di lui! Guarda che c'è un culone della Madonna! C'è bello! Lui non ti vuole, Cacciù! No. Mi vuole, mi vuole! Quante volte gli ho fatto il culù? E voglio! Io voglio Misty! Ma vaffanculo, lasciami stare! No! Ehi, Cacciù! Dimmi, mio pupù! Non lo prenderai mai, Cubone! L'ho preso, invece! È troppo veloce per te! L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso! Ah, l'hai preso? L'ha preso lui! Ah, va bene! Ciao, mia puzza di merda! No! Pokémon, i Pokémon. Madonna mia. Questi sono zozzo veramente. Abbiamo rovinato anche un cartone animato storico. Il preferito dai bambini. Mamma mia. Io mi dissocio. Chi sei tu? Perché dissocia prima? Io sono Sailor Moon. Ma che cosa? Ce ne rendo, la stai zitto. Vieni qua che ti faccio un... Cosa? No, ti fa vedere il settimo nano, guarda. No, no, no, il settimo nano. Oh, ma io non ho veramente parole. Perché chiunque entri in questo studio dalle 7 alle 10 automaticamente perde il buon senso, la carineria, l'educazione. C'è anche il cane. Io sono rimasta così com'è. Sì, appunto. Sì, sì, sì. Un cesso. No, Jimmy, sono una così bella ragazza. Sto scherzando. Dai, l'ha mandata qua lei, poi mi scusi, l'ha scelta lei. Una sua raccomandata. Ma solo perché le guardavo un rimorchio dietro, no? Senta, ma dai, ma ha letto la notizia? Sempre la stessa cosa, oh. Mazzoli del Pesaro. Ancora gioca questo qua. È sempre quello che giocava nella Pistoiese? Sì. No, questo qua è passato alla Pesarese. Quindi questo è suo fratello, non è suo cugino? Ma che cosa? Dicono che ha il mio stesso naso. È brutto uguale a me, tra l'altro. Ma che roba, e fa già schifo. Ce ne vuole. Esatto. Senta, siccome oggi sono in vena di proposte, sì? Oggi mi sento propositivo, no? Cioè? E siccome sto per teletrasportarle nel suo studio un, diciamo così, un nuovo dischi jockey che presenteremo di Radio 105. Ah, non di Jimmy Network? No, di Jimmy Network c'è DJ www. Che adesso gli faccio sentire. Però sì, c'è un nuovo DJ, diciamo così. Sì. Uno che sembra che si è pettinato alla stazione centrale con un pendolino in arrivo da Roma. Povero, senza vetri ovviamente. Sì, un DJ, diciamo così, uno. E soprattutto lui è famoso perché ci vede benissimo. Ah, è vero. Questa è una delle sue qualità, esatto. Lui, d'altronde, questo DJ che si chiama Fernando. Sì. Che poi sveleremo anche il cognome. Sì. È uno, penso, dei DJ che ci vede meglio al mondo. Ma che cosa? Tu arrivi a 3 centimetri e lui ti vede. A 3 centimetri. Sì, fino a quel momento non riesce a vedere. Ho capito. Dopo lo presentiamo, nel frattempo facciamo ovviamente un po' a noi, un po' a lei, giusto? No, un po' a me e quello che rimane a voi. Allora, noi abbiamo assunto un DJ che è nuovo, lei ha assunto un DJ gioca nuovo nella sua radio, giusto? Si chiama DJ www perché la new economy, ragazzi, sarà sempre più potente. Ma fa schifo sto qua. Futuro. Sì. Tecnologia. Scienza. Non fantascienza. Sì. Lui è DJ www. One more time. Daft Punk, no. One more time, ancora una volta in più. Mirko, io e te siamo cane e gatto? Madonna. Perché? Siamo i Tom e Jerry della provincia. No. Io direi più Gianni Pinotto. Si sta Gianni olio. È vero, in effetti assomigliamo molto a Gianni Pinotto. Non ci credete? Consultate il nostro sito e scoprirete le nostre immagini. Qual è il sito? Ho trovato ovviamente il sito anche dei cani e dei gatti. Non ci credi? E allora? Ve lo dico. Sì. Sul sito di cani e gatti potreste trovare sicuramente dei consigli che il veterinario vi può offrire. Oppure potete trovare delle norme legate al loro possesso. Sì. Ma non solo, vi si trovano tantissime altre curiosità su questo sito che tra poco daremo. Addirittura pensate che cani e gatti hanno bisogno anche loro di essere curati con i fiori di Bach o con la medicina omeopatica. Si pensava solo gli esseri umani, invece anche loro devono godere di queste attenzioni. O addirittura potreste trovare la rubrica degli annunci cerca e trova. Sì. Pensa, una vera e propria agenzia matrimoniale per far incontrare i quattro zampe e magari il partner ideale. Pensa, magari una bella gattina con un bulldog oppure un setter con una persiana. Non la finestra, mi raccomando, non pensate favore subito a cose stupide. Ah, ecco, tu c'hai il criceto, vabbè, insomma. Il sito non poteva essere che http://. Sì. digilander/. Sì. /. Sì. digilander.yol/.it. Sì. www.it. /. Basta. /. .yol. Cani e gatti. /. Basta. Renzo del Rosso. /. Sì. Nueclu. Sì. /. Basta. .com. Nueclu. Vai con il disco. /. www.nueclu.it. /.html. Ma vai a casa. Che cos'è, una diarrea? Breve il sito? Rimane subito in memoria proprio, dai. Scusi, uno le informazioni non è che le può avere così su due piedi, Ma che cosa? Due ore di sito! Degli studi dietro, mi scusi! La sua fine è vicina. No, oh, io non voglio morire. Dai, giovane Leo, padre. Non ho paura. Ma dai, scelga solo come, tornerò a trovarla. Ma cosa? Come scegli come? Le voglio porte, morire nel sonno. Le porte sono aperte. È un giovanotto, non voglio morire nel sonno io. Non dai. Puoi, sai perché? Perché? Perché tu già dormi in piedi. Ma cosa? Le porte sono aperte. Ma dai, Marco, non preoccuparti, guarda, me la vedo cosa? Io. Cosa? Non ti faccio morire io. Tu sei un gufo. Ma io non ti faccio morire. Tu sei un gufo. Io ti metto soltanto la cosa lì e basta. Ti faccio rivenire, vieni qua. Ma no! No! Ti faccio rivenire! Vai! Vaffanculo! Assordo! Lo so di 105! Che non sono freschi la mattina! Ah, ho capito, volevo salutare velocemente Andrea da Racale, poi Dennis da Forlì, sì? Poi ciao da Roby, Chiara sei la meglio. Ah. Ma basta, dì a tua mamma di smetterla. Basta, veramente. Il numero è sempre quello. Max che dice: ragazzi, sono a Lignano e c'è una radio locale, eh? Che si chiama Boom Boom Energy, che vi frega le frequenze. Organizzatevi, bastardi. Leone alita verso Lignano, vai. È sparita l'antenna. È sparita l'antenna. Ecco, se mi permette, invece, sì? Io vorrei fare una critica, visto che poi apriremo anche uno spazio, ora di dire basta, dedicato a qualcuno. Sì. Ecco, vorrei fare una critica, diciamo così, a quel gruppo dance che ieri sera, diciamo così, ha aperto il festival bar. Perché, scusi? Sono nostri colleghi. Dai. Scats and Pats. Ma no, Pups and Scar. Eccoli. So baby, get it on, get it in, get it out, io... tell me what it's all about. Vai, sulle mani. Io mi permetto veramente di criticare, eh? E di dire che, secondo me, è inammissibile che, sì? Facciano andare una canzone copiata ad aprire il festival bar. Ma cosa sta dicendo? È Leone che l'ha copiata la canzone. Per me è inammissibile che queste cose avvengano. Ma voi siete malati nel cervello. Marco, questa è originale mia. È inammissibile che Scats e Mazze, Pups and Scar, gli Stallio e Ollio, sì, della musica dance internazionale, sì? Perché uno sembra un estintore, e l'altro sembra un gay, un gay, lo dica, anzi, secondo me è gay, vabbè, esatto, diciamolo, esatto. Sì. È impossibile che copino delle canzoni e portino in giro i marchi di qualcun altro. Senta, no, questa però, questa è una palla. No, dai, il disco l'hanno fatto prima loro, poi Leone come al solito l'ha copiato. No, ma ti sbaglio stavolta. Ma cazzo. Pensate. Vabbè, possiamo sentire la versione, per favore, cantata da Leone, così gli ascoltatori giudicano? Che è la versione originale. Ma non è allora, scusi, faccio una domanda agli ascoltatori. 0265521245 è il fax. Secondo voi è questa l'originale o quella che c'era ieri a Festival Bar? Questa. Senti, Dai, l'hai rubata, Leone. L'hai rubato, dai. Ladro. Brava. Stucchino. Nagazzos, nagazzos. E famo un rotto. Doveva aprire questa al Festival Bar. Ma bevi stucchino. Nastremo di limone. Catino troppo. Che bello stu tripone. Bevi stucchino. Arrangiato, nagazzos. E famo un rotto. Ma bevi stucchino. Ha visto come si muoveva bene Scats? Ma lasci stare! Che bello tu tripone! Complimenti per la camicia color Alpro Magique, eh? A tutti e due! Sentiamo! Ehi, bulacchione, io mi ero fidato di te, ma a letto io non vengo. Sei uno strunz, sei malato, veramente. Ma bevi stucchino, n'aranciat, n'agazzos, e famo un rutto. Ma bevi stucchino, n'astremo, pinimo, capino un troppo. Che bello stu tripo. Vado? Tu devi digerir, tu devi digerir, tu devi dimagrir. Asciutto. Di alta qualità. Ma stai zitta. Ehi, è mezzanotte, c'è la nonna che sveglia e seduta col cane sul balcone. Quella prega, prega a Dio, che mi pio. Ma vedi stucchino, n'aranciata, na gazzos, e famo un rotto. Vai Leone, vai! Ma bevi stucchino, la spremo di limone, cantino non troppo. Tu devi digerir, tu devi digerir, tu devi dimagrir. al Super Classifica Zoo l'uomo più grasso del mondo, soprattutto nel cervello, è lui, Leone di Merda! Bello, il Gran Porcello, il nuovo album di Leone. Non stai guadagnando i miliardi, noi non dai neanche mille lire. Li stiamo mandando all'estero. Stai zitto, stai. Che bastardo che ho. E lui guadagna sulle nostre spalle. Potresti almeno invitarci a cena. Guarda che ci devi pagare, oh. Oh, ci devi pagare. Io ti ho fatto lo spot, me lo devi pagare. Lo sai che ti paga sempre in nato. La Fiat mi ha pagato per fare lo spot, la voce. Mi devi pagare. Che poi te l'ho anche montato, quindi mi devi pagare. Perché io non ti mondo a te. Tutta la pubblicità che abbiamo fatto al tuo cacchio di disco e ci devi pagare. Per usare la mia immagine, quella di Giba. Poi il traditore lascia stare. Sul disco lo devi pagare. E capito? Io cosa faccio? Non ti paga la sera. Ma stai zitto. Dai, no, guarda che vogliamo risolvere. Voglio. Sai quando ce lo siamo mandati in Svizzera? Ce li dai o no? Appena vendiamo il disco, vedrai. Ma hai venduto il disco, bastardo. Neanche 100.000 lire, capito? Così. Ve lo do, ve la do. Sì, non li vedrai mai. Mai, bastardo. Comunque, restate con lo Zoo di 105. Tra poco ci colleghiamo con Canal Jimmy. Perché ci sarà una puntata speciale di Pino Balera. Quindi, mattinatissima. Benissimo, grazie. La seconda, I always forget to turn on my brain in the morning. Ah, c'è una fighetta che è la fine del mondo. Questa è stronza. Ho capito, va bene. Allora, terzo punto, I pay prostitutes to have sex. Quando vai con una prostituta c'è un sacco di pelle, non puoi fare niente. Che succede quello? La sentita. Non lo so. Quarta, attenzione. My life is made of stealing money to my friends. Non ti lavi da 3 mesi e fate una bella lavata. Benissimo. Che cacchio. Grazie, professore. Thank you, le thank you. Grazie. Allora, attenzione. Dai. E perché? Scusa, quello è il mio. Thank you. A te no. Thank you, è bella. Passiamo invece alla professoressa Chiara, che farà tradurre delle frasi dal latino all'italiano, sempre al professor di Lenny. Siamo pronti? Cominciamo con qualcosa di semplice. Bene, Leone. Latrino. Questo è latino. Dove si parla il latino? Latino. Figuriamoci, a me viene a te. Dai, io l'ho studiato 30 anni, adesso lo dico in italiano, dai. Va bene, allora, per esempio, carpe diem. Carpe diem, un carpentiere che non fa mai. Non so. Dai. Mortum propinquis eius, sepeliendum tradidit. Allora, è morto un pinguino, l'hanno tagliato in due e non hanno fatto niente per mangiare. Certo, questo era giusto, no, era giusto, no, cosa ridete? Poi. Cur escam columbis non das? Curati prima di uscire da casa, se no non ti danno niente. E l'ultima, invidiam semper metuite quia amicitias delet. Ci sono un sacco di gente nella radio che sono invidiosi, sì, no? E non si fanno mai i cacchi loro, quindi sì, andate a fare in culo. Benissimo, grazie. Bravo. Mamma dello sol. Questa è la verità però, eh? Mamma dello sol. Bravo. Complimenti. Grazie professore, arrivederci. Scusa, devo parlare in inglese. Tu sai l'inglese? Se thank you very much for coming here today. It's a really big honor to have you in our studios. Thank you. Due volte a te. Due volte a te e una volta a lei. Buongiorno. Salve. Un deficiente. Salutiamo Davide Francesco. È ancora in linea l'ascoltatore di Padova? Sì. Pronto? È sempre presente. Perfetto, stai lì, paghiamo noi. Piuttosto che regalare un ascoltatore un'altra radio, guarda. Mi indebito, vado a firmare i cambiali in banca. Anch'io. Vai, zitto. No, prima la discussione era la seguente, no? C'era sta canzone in sottofondo, c'era Giba seduto di qua con Chiara, eccetera, Leone dietro di me. E io dicevo, però guarda che è triste pensare al fatto che noi, quando ci alziamo la mattina, ci guardiamo allo specchio, pensiamo... Come saremo tra 10 anni? Sì, chissà come sarò da grande. Sì, chissà cosa farò. Cioè, abbiamo comunque tanta strada davanti. È brutto invece pensare. Avere un futuro. Pensare a uno come Leone che invece si alza la mattina, si guarda allo specchio e non può pensare che sono arrivato alla fine. Sì. Potrei morire da un momento all'altro. Peccato che non c'è la televisione. Sì. Se no faccio vedere quello che ho fatto vedere a Jim. Sono dietro la testa tua. Stai zitto. Un cartonato. Un cartonato. Leone di Verne quando si alza. Outs. Outs. Che bella giornata. Va avanti così per 300 anni. Sì, no? Sì. Se voglio. Sì, sì, outs sì. Appena ti svegli. Venerabile Jimmy. No, comunque ragazzi, volevo dire, visto che comunque parlate delle disgrazie della vita, sì, io voglio darvi, diciamo così, qualche minuto di spensieratezza. Oh, meno male. E quindi ragazzi, vi ho fatto sistemare, come già sapete, delle poltrone per il mio cinematografo. Sì. Quindi accomodatevi pure, perché vi faccio rivedere a grande richiesta. È vero, a grande richiesta, tutti l'hanno richiesto sto film. Un grandissimo film. Tra l'altro è diviso in due puntate, giusto? È diviso in due puntate perché, essendo un cult, un colossal, sì, è talmente lungo, la regia è stata talmente complicata e complessa che l'abbiamo montata. No, il deficiente che l'ha montato non si è reso conto che durava 9 minuti. Ha dovuto dividere in due. Ma c'è sempre il primo e il secondo tempo. Che significa? Ha ragione. Dai. Ma stai zitto. Io ho preso anche popcorn. Mamma mia. Vuoi il cono gelato? No! Vediamo il film, andiamo. Le dia una bomboniera, va. La. Ho un ufficio in Viale Bligni che uso come scannatoio. In collaborazione con la Ho e vendo le videocassette a 2 milioni production. Presenta. Quando amore, aerei, sesso, limonate e palpatine si fondono. Potenza, sfide, zizzagnate, screzzature e turbolenze creano uno dei capolavori del cinema americano. Top Cats, Top Cats, Top Cats. Il film degli anni 90 più visto. L'insieme di motori, amore, sesso, limonate e palpatine hanno fatto di questo film un vero capolavoro cinematografico. Top Gun. E oggi Canal Jimmy vi regala la versione integrale del film, scene hard comprese. No! Base militare di Turbolencia, California. Il pilota Leon Cruise e il suo compagno Buse, a causa del ritiro improvviso del pilota scelto Gilberto Penza, diventano i primi della lista per entrare nella scuola militare aeronautica più importante ed esclusiva di tutto il mondo. I Top Cats. Cari Leon e Buse, il povero Gilberto Penza si è ritirato. Non ce la faceva più a sopportare lo stress di questa nostra missione che abbiamo nella vita. Quindi, voi due. Cosa c'è? Passate in testa alla lista. Sì. Sì, voi due. Brutti stronzi. No! Scusa, dobbiamo passare. Voi due! Oh, non gridare! Voi due avrete l'onore di diventare dei Top Cats. Ouch! Mi raccomando. Non si preoccupi. Se sbagliate una sola mossa, vi sbatto fuori dalla base a calci in culo. No! Oh, stai tranquillo. Quello lì è bravo con i cazzi. No! Adavo dai. Mi raccomando. L'avventura inizia e Leon Cruise partecipa in maniera eccellente alle lezioni di teoria. Allora, vediamo se avete capito tutto di quello che vi ho spiegato in queste settimane di corso di addestramento. Sì. Tu, Leon. Dimmi. Dimmi subito che cos'è una turbina Power Sound Turbo People in the future. Se te lo dico subito, è semplice. È una persona che ha la tubercolosi, no? Che ha fumato tanto e ha pippato tanto, pure. Ecco le esercitazioni di Leon Cruise e il suo compagno Buse a bordo del potentissimo F-131 Turbo Mirafiori. No! Un aereo di costruzione recentissima, sì. 1432, e con prestazioni incredibili. Incredibili. Parcheri, tutti i commerciali si tengono pronti. Bus! Dai! Dobbiamo superare questa prova, guarda! Guarda che è mirato, guarda! Così dobbiamo andare, sì! Bravo. Bus, spara! No! Oh, bus! E che cosa? Che cos'è? Una contraerea questa qua? Oh! Vedo tu di sparare! Vabbè, ma non sparare così! Ma fuochi, figuriamoci! Senti un po' che odore! Che puzzo di muffa! Cosa avevi in quella pancia? Non devi sparare così! Devi sparare col metro, con la mitragliatrice, come cazzo sto dice! Io ti obbedisco, sai che ti amo! Amo un cazzo! No! I piloti Top Cats superano le numerose prove con successo. Successo. Ma oltre alle ore di studio e alle ore di esercitazione, i piloti Top Cats la sera si svagano nei locali notturni più esclusivi. Eccoli all'interno del Puttanosaurus Bar di California, dove Leon Cruise cerca di conquistare una ragazza cantandole una canzone d'amore. Ehi, Bus! Hai visto? Siamo i numero uni, siamo, figuriamoci! Hai visto oggi che impennato ha fatto l'aereo? Sì, hai ragione tu. Intanto l'abbiamo fatto. Sì, è vero, hai fatto bene. Ma basta così, costruisci, sì, per fengulasso. No. Sì, hai ragione. Ancora. Ciao amore mio. Dice a me che bella che sei, come sei affascinante. Oh, che uomo. Che corpo, sai che ti voglio cantare una canzone. Una canzone, l'ultimo dei romantici. Ma guarda un po', senti un po', senti questa canzone, te la dedico a te con amore. Ho già i brividi. Vedi quanto sei mangiata la banana. Dai. Con due salsicce. E un parmigiano. E molto sento male se tu ti fai una limonata. Limonata. Con tre cucchiaie di citrate. Sorrita la scernata. Cioè, secondo lui, per, diciamo così, rientrare nell'allarme. Dov'è? L'allarme inquinamento. Dov'è Leone? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Aspetta, non apri il canale, aspetta. Insomma, a gruppo lo stira. Vado. Insomma, il sindaco di Milano ha proposto di mettere una tassa a tutti quelli che entreranno nel centro storico di Milano. Ci colleghiamo con Leone, che è in via Turati in questo momento. Anzi, invitiamo chi è a Milano a cercare di investirlo con la macchina. Vai. Lo Zoo di 105 e la Leone di Lernia Production presentano È ora di dire basta. Basta. Basta. Due minuti dedicati a chi ha veramente rotto le balle. Leone! Qui sono con una bella ragazza, bellissima, qui allo Zoo di 105. Come ti chiami? Floriana. Floriana, cosa ne pensi del sindaco di Milano che vuole far pagare la tassa per entrare nel centro storico? Meglio, meno traffico. Ma come meno traffico? Come pagamento si può entrare senza, se non paghi non puoi entrare. Sono di Milano, quindi. Ah, non te ne frega niente? No. Ma è giusto che pagano questa tassa? Non lo so. Di dov'è lei? Di dove sei? Di Erba. Di Erba, ma erba, forza. Leone, se Erba facessero la stessa legge? Se Erba facessero la stessa legge, dice Marco? Se Erba facessero la stessa legge, non so. Ti girerebbero le palle o no? Ti girano le palle pure la cosa. Come? Ti girano le palle oppure qualche altra cosa? No, niente. Amore, passa un altro, vai. Va bene, grazie. Ciao, bel bambino. Aspetta, c'è un bel ragazzo. Ah, aspetta, una piccola domanda. Dai, aspetta. Guarda, senti un po'. Aspetta, ferma, chi ti muore? Se non ti fermo, non ti posso fare la domanda. Senta, cosa ne pensi del sindaco di Milano che vuol far pagare una tassa per entrare nel centro storico di Milano? Cosa pensi? A te la dobbiamo far pagare sempre. Come fa pagare sempre? Voglio dire, se ci sei tu nel centro storico, perché sono animali, chi te muore? Sto sta ricorrendo. Gli animali. Ciao, Leo. Grazie. Oh. Dai, beccano un altro. Aspetta, sta arrivando una, quando arriva? No, non si sa ancora quanto faranno pagare comunque. E appunto, questa è la storia. Aspetta che sta arrivando un altro, questo qua sarà un avvocato perso. Vai. Senta, qui allo Zoo di 105, cosa ne pensa lei del sindaco di Milano che vuol far pagare la tassa per entrare nel centro storico? È assurdo. Bravo. Come assurdo? Oh. È assurdo. Che faccia pagare una tassa del genere. Quindi non va bene. No, secondo me no. E cosa bisogna fare? Bisogna andare a fare. Faccia lei. Va bene, grazie. L'ultimo Leone, dai, becca questo qua. Aspetta, in cacca, mi scusi dottore. Cosa ne pensa lei del sindaco di Milano che vuol far pagare una tassa per entrare nel centro storico? Io non sono di Milano, quindi non sono d'accordo. Non andrò a fare niente. Non me ne frega, no, mi interessa perché lavorando a Milano mi interessa, spero che non lo faccia. No, ma lo stanno facendo. No, non ancora. Però se paghi può entrare, se non paghi non può entrare. Però lavorare da un'altra parte. Che cazzo di legge questa qua. Grazie Leone. Grazie a voi, ciao ragazzi. Leone, rimani in strada, adesso sicuramente passerà qualcuno e cercherà di investirti. Vinci un premio se riesci a tornare su in radio sano. Stanno arrivando i carri armati adesso, vedrai. Ciao Leo, grazie. Ciao. Quindi la legge è trummata. Ciao. Se anche tu vuoi segnalarci qualcuno che ha davvero rotto, manda il tuo fax allo 02-655-1245. È ora di dire basta. Quotidiano di informazione a cura dell'opinionista Leone di Lernia. Che bello giocare con te, Leone. Giocare con me. Era in fondo al corridoio, il disco era appena partito. Leone, corri, siamo in onda. Un veloci raptor. Stavo cadendo. Certo che la vita è davvero ingiusta, La vita è davvero ingiusta. Cioè, per esempio, Vasco Rossi, che sembra ubriaco qua, miliardario. Eros Ramazzotti, vi è mai successo di ascoltare attentamente le parole dell'ultimo album, da quando si scrive lui i testi? Madonna. Cioè, delle cose vergognose. Miliardario. Eros Ramazzotti è un genio, un poeta. Ma de che? Per fare rima metteremo insieme qualsiasi parola. Leone di Lernia, un ennesimo furto al mondo intero. Senza miliardario anche lui. E scrive delle cose vergognose. Un ignorante che non sa nemmeno l'alfabeto. Stai zitto. Bocca da mucca. Stai zitto. Salutiamo Riccardo da Cagliari che chiede quanto lo paghi per bombarlo. 500 lire. Ah, bene. E invece io volevo salutare. Vai, amore. Studio Eric Fricker con Eric Jacqueline. Sì. Angelo e Roberto che mi mandano i loro baci. Oh, Dio. E siccome. Siccome? Siccome ieri ho passato una splendida serata con loro. Con chi? Con questi che mi hanno mandato l'email. Ah, ecco perché io ti saluto. Io li contatto tramite email e poi me li bombolo. Senti, Chiara, senti, Chiara. Ma è vero che volevi fare il paglio di cera solo perché venivi frustata? Oh, oh, oh. Ma magari. Una bella cavalla. Chi è che ha vinto il paio di Siena? Ha vinto il Leocordo. Il Leocordo. Senza il pattino. Sono contento che ha vinto. Sai perché? Sì, perché io ho un'amica che abita a Siena. Sì? Ed è della Civetta. E per l'ennesima volta non vincono un cacchio. Vabbè, che c'ha una contrada che si chiama Civetta, voglio dire. Sì, cioè, infatti, si gufano da sola. Si spiga da sola, scusi. Non sapevo neanche che esistesse io. Comunque, è bello il paio. Noi che non siamo di Siena non possiamo capirlo. Beh, però è molto sentito. È bellissimo, veramente. È bella l'atmosfera proprio, pensi, che si crea. Pensi che io l'ho vinto 7 anni di fila. Sì. Cioè? Ogni anno mi travestivo da cavallo diverso. Ma che e ti frustavano? È bello perché i fantini sono tutti sardi, tra l'altro, eh? Sì, i fantini sono. E miliardari. Vabbè. Madonna. Senta, facciamo un saluto anche a un pelato che ci ascolta, un certo Ferdinando, che è un pelato veramente, un mio amico di vecchia data. Sì. Pensi che lui è andato a finire su Saturno? Sì. Ed è rimasto lì e ha aperto questa colonia di pelati e su Saturno sono tutti pelati. Ma che cosa? Ma non ci vive nessuno su Saturno. Lo dice lei, perché ma non ancora, c'è acqua, perché ancora la civiltà umana non c'è arrivata. Vabbè, ma un giorno ci arriveremo. Salutiamo. E sa chi sarà di prima ad arrivarci? Chi? Con le onde sonore? Chi? Pino Balera e Beppe Pista. Ma figuriamoci, due deficienti. Cittini di me. Sentiamo. Io non sbaglio mai. Sentiamo. Radio Jimmy Corporation presenta Mattinatissima. Mattinatissima. La mattina giovane di Radio Jimmy Network. Radio Jimmy Network. La techno più forte, la house più nuova e le ultime novità dance presentate dai DJ di tendenza Pino Balera e Beppe Pista. Mattinatissima, mattinatissima. Due pensionate. Mattinatissima. Vai. La musica nuova prima di tutti è su Radio Jimmy Network. Vai, bene zoie. Io cerco la morosa. Anch'io il Beppe. Sì. La voglio romagnola. Anch'io fai i soffocotti. No. La cerco verginella. Sono tutte zoccole. La cerco campagnola. Magari così mi spaletto un po'. La voglio in esclusiva. Sì. Che pensi se la me? Caro Beppe, diziamolo, è un po' difficile oggigiorno trovare una brava bambina che insomma non faccia i soffocotti a destra e manca. Ma cosa? Ma sazza, ma ciao, benvenuti su Radio Jimmy Network. Questa è la 47esima ora di diretta. No! E siamo qua sempre in forma. E diziamolo, non ci droghiamo noi come fanno i zovinotti di oggi. Noi mangiamo le pennette alla arrabbiata che ci tengono belli svegli. Ma cosa? Ci basta poco a noi, ci basta veramente poco. Allora ragazzi, non siamo qua per ridere e scherzare, meglio, siamo qua anche per quello, ma siamo qua perché dobbiamo fare il nostro gioco, cioè indovinare quante pennette esattamente c'erano dentro la padellona che tirava il Zotti Vannelli sabato sera alla balena. Ma non è vero! E allora cosa facciamo? Innanzitutto ricordiamo il nostro montepremi, sì, che è una bella carrozzina motore della Califano, eh? Sei no, pronto? Della Califone, Beppe! Ah, Califano è il cantante! Allora ricordiamo che la carrozzina motore della Califone è raffreddata d'acqua, sì, c'ha due ruote da neve, insieme ci sono le catene, addirittura pensate c'è una bella sacca in caucciù porta spesa, così quando tu vai a fare la spesa con la tua carrozzina motore potrai mettere la tua spesa direttamente nella sacca. Ma che so. Allora facciamo una bella cosa, vai. Chiamiamo un bel fortunello ascoltatore, perché tanto sappiamo ci ascoltano tutti. Bravo Beppe. Il programma che non piace con Mazzoli, Leone, Chiara, Giba e il venerabile Zimmi. Bravo. Ho trovato queste cose strane sugli animali. Per esempio, lei lo sapeva che l'orgasmo di un maiale dura 30 minuti? 30 minuti. 30 minuti. Oh, sì, ma è una specie in via di estinzione, però. Sì, ma c'è un solo maiale praticamente che invece ha un cortometraggio interno che è Leone di Lerno. Io devo andare a trovare questo maiale qua. Come fa a durare 30 minuti? C'è proprio l'orgasmo, cioè il momento di altissimo piacere dura 30 minuti. 30 minuti. Voglio essere un maiale la prossima. Beato te, Leone. Oh, niente. Ma sono diversi come maiale, però. Ma anche i maiali soffrono di eiaculazione precoce, lo sapevo, eh. Ah, dai. Tu sei un maialus cocheratus, perché hai il cocker in testa, quindi è diverso. Cocco fresco, oh, cocco bello. Ma che cosa? L'occhio dello struzzo è più grande del suo cervello. Veramente? Conosco un'altra specie animale io. Che saresti tu? Che ha un'altra cosa più grossa del cervello. Lo struzzo ce l'hai tu. Dai. Tu ce l'hai. Ce l'hai tu. Vabbè, non ci perdiamo in cocco chiacchiere. Fresco, oh, cocco fresco, cocco bello. È il venditore del cinema. Adesso è estate, non si danno più i propri cordi. Cosa vende il cocco al cinema? Cocco fresco, ancora. Cocco bello. Oh, te ne devi andare. Vai sulle spiagge. E purtroppo questo qua è un ragazzo romano che per arrotondare sa fa questo lavoro vende qua. Vende il cocco al cinema, certo. Bravo, bravo. Salve. Sedetevi che sta per cominciare Super Bird, eh. Benissimo. Cocco fresco, cocco bello. Vuoi un pezzo di cocco? Anche due. Dove te lo metti? Cuck viene salvato dall'amore del padre. Sì. Figura straordinaria del pianeta Schizzon che affida una navicella con a bordo il bambino alla galassia sperduta. Sì. Il piccino arriva sulla Terra, dove viene allevato con premura da una famiglia pugliese, i Dilernia, la quale ben presto scopre che il piccolo riesce a volare grazie alla potenza delle sue scorregge. Cosa? È forte e può volare, guardare attraverso i muri, addirittura fermare eventi catastrofici. Sì, sì, è lui. È Super Merde. Super Merde. Super Merde. Super Merde. Ma andiamo a Schizzopoli a vedere cosa sta combinando il malvagio Glexetator. Vediamo. Vediamo. Finalmente il mio piano si realizzerà grazie a quei missili della NASA che io dirotterò verso la California. Così costruirò un sacco di casinò e farò tanto soldo. Lo soldo, la cosa che mi importa di più. Lo soldo. Nel frattempo, ad Andria in provincia, sempre di Bari, il nostro beniamino Super Merde, nelle vesti di Cuck Kent, viene invitato a casa di Lilly per cena. E che cena? No, non se la vuole mica bombare. No. Vediamo. Che buon! Sto per scoppiare, non ce la faccio più! Maledetta questi fagioli bastardi! Oh, Lily buon! Lily Lois, sei proprio buono quello! Lily Lois! Oh! Lily Lois! No, Lily Boy! Dov'è Lily Boy? Ti picchiano un po'. Dai, per fengula storia! Lily Boy! Lily Lois! Lily Lois, è proprio buono questo primo. Cosa hai messo di ingrediente? Oh, sai, un po' di peperoncini, delle prugne, le acciughe, mezzo chilo di fagioli. Dai, non fare il timidone. Dai, non farlo, ora te la faccio passare io la timidezza. Guarda qui, guardami nuda, ti piaccio. Madonna! Sì, sì, sì, sì. Madonna, ma non c'era sta scena nel film. Madonna, la morte adesso. Sì, come sei bella. Aspetta, fammi toccare il collo. Aspetta, ma da come? Aspetta che ti tocco, che bel se... No. Scusami, Lilly, ma non ce la faccio. Che bella tetta che c'è. Che fammi abbracciarti su un socchino, un socchino. Ma che succede? Madonna, che succede? La California è in pericolo, la California. Per quel bastardo di Tati che vuole sempre lo sa. Da intorno, usando il sistema Puzzettas Modelos Fognas di Calcuttas Turbo Power. Puzzettas Modelos Fognas di Calcuttas Turbo Power. Il povero Mazzoli, infatti, ha al posto dello stomaco una fabbrica di gas nocivo che continua a produrre e che causa esplosioni pari ad una bomba nucleare. Noi del mondo animale seguiremo passo per passo il nasus enormes menomatus mentales, o volgaremente chiamato il Marco Mazzoli. Bastardi, è vero, questo è tutto vero. Ma che cosa? Non è vero? Tu veramente c'è una camera a gas a dire. Ma stai zitto, stai. Vabbè, grazie. Che quando è entrato in casa le pareti erano bianche. Adesso sono tutte marroni. Ma non è vero! Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Non è possibile, non è ammissibile sta cosa. È colpa mia. Vabbè, colpa senti, tua, allora noi di 105, noi dello zoo, siamo persone molto buone, larghe di maniche, a suo punto ti diamo ancora una volta 2 minuti per dedicare una poesia. Però che sia una poesia romantica, non le solite, ok? Eccolo qua, vai. Io la amo e quindi sì, voglio dedicarle sì, questa poesia. Perché? Sai che mi ricordi sempre di più Giba nel periodo che fu? Guarda, uguale, oh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Che fu perché è morto? No. No, diciamo che sì, è morta una parte di lui che io odiavo ed è nata una parte di lui invece che amo adesso. Ah, bene. Diciamo che da sfigato, da quando... innamorato, cornuto, è diventato Exaltorade Turbo Power, Gran Mignotaurus. E ha cambiato fidanzato. No, esatto, no. Sì. Dai, vai. Vai felice con la poesia. Vai. La poesia di oggi si chiama Love Story. Ah. Oh. Questa è bella. Love story. Amore. Un profumo nell'aria. Un profumo nell'aria. Bello. Ce ne sono sì, tanti. Amore. Dello champagne sulla tavola. Che bello. Madonna mai. Amore. Sì. Le candele accese. Nella stanza. Che scenario. Amore. Amore. Un vestito. Sul tappeto. Madonna mai. Amore. Sì. E nel mio letto? Tu? Sì. Tu. Gatto di merda. No! Che c'entra il gatto? Che c'entra il gatto? Le 8 e 3 minuti. 105, 105. Come che c'entra il gatto? Si è mangiato la coda, il gatto. Stai zitto. Io sono felice. Di nome? Di nome? E di fatto. E di fatto. Oh, ciao felice! Beato te che sei ignorante, dai, ciao! A domani! Ciao amore, ciao, buona giornata! Mettiamo una super Susanna da competizione, questa è Jerry Halliwell! Cantando perché ho gli occhi gonfi, ho ancora le caccole qua, guarda qua che schifo. Si vede. Dai zitto, senti qua cosa scrivono gli ascoltatori. Allora dice Mazzoli, perché quando parli tu per radio tutto ok, quando parla Leone le casse scorreggiano? Alessandro da C. Raimondo. Dov'è C. Raimondo? Vicino a Manfredonia. Non lo so, davvero? No, non lo sai. Poi aspetta, ciao bastardi, ma lo sapete che l'unico modo che avete voi per fare un porno è quello di farvi un promo davanti allo specchio? Da Ferrara, grazie amore. Porta la tua ragazza, vedrai se facciamo. Senti, vi ha ricordare importantissimo che anche oggi faremo lo spazio nuovo dello zoo che si chiama È quella la cosa forte. Un'idea della sigla 1, 2, 3. È quella la cosa forte. È quella la cosa forte. È quella la cosa, è quella la cosa, è quella la cosa forte. Hey! Dovete raccontarci una barzelletta, un fatto che vi è accaduto, non so, insieme alla vostra fidanzata, dovete mandare a quel paese qualcuno, a parte Leone, perché lì c'è uno spazio apposta. Il numero è 800 105 105, paghiamo noi, tranquilli. Tutto. Paga la radio, paghiamo, paga Leone. Sì, sì. È collegato direttamente alla bolletta di casa tua quello, tranquillo. Al Banco di Roma. Sì. Giochiamo a Mugici, vai, sigla. 105. Mugisce e vinci. Almeno ci ripigliamo un po'. Stamattina sono rimbambito. No, stai venendo su. Fatto tardi ieri sera, Leo. Lo so. Alessandra è in corso, attenzione. Deve rispondere con un muggito, Ma vieni! Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Ti sei appena alzato o sei sveglio da un po'? No, è dalle 4 che sono in piedi. Dalle 4? Che fai, il pane? No, faccio l'autista. Vado di pullman? No, camion. Camion, cosa trasporti? La puzza. Di tutto. Come di tutto? Medicinali. Ma sei padroncino o? No, dipendente. Dipendente. Medicinali. Senti, c'hai qualcosa per il cervellus andatus amalus? È una malattia rara che ha solo Leone. A Leone ti viene a fare la nasa di sangue però. Veramente? Sì, veramente. No.